140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Palazzo del Cinema, Lido di Venezia. Anna rimane sola per l'arresto del marito e non riesce a rimettere in piedi la sua vita. Anna e Charlotte Rampling, Coppa Volpi a Venezia. Andrea presented it to me. He sent the screenplay. He sent his. Oh, Andrea mi ha mandato la sceneggiatura, mi ha mandato Medeasi, il suo precedente film, e una serie di immagini di come lui immaginava Anna, e immediatamente mi ha catturato questo personaggio. Very much wanting to do the film with him. The whole point of the film is to follow. Il punto del film è proprio non sapere chi è Anna, seguirla e scoprirlo poco a poco. Io stessa non sapevo chi fosse quando ho iniziato, mi sono trovata nella posizione esatta in cui si trova lo spettatore all'inizio del film, che la vede in una situazione che presto la costringerà a cambiare la sua vita, e poi seguiamo il suo percorso mentale e tutta la trafila di sentimenti che prova. And then you follow what's going on in her head. The anecdote of. Quindi diciamo che l'aspetto aneddotico non ha la minima importanza. Quello che conta è come Andrea ha voluto presentare questo personaggio proprio attraverso le sue riflessioni che noi intuiamo. Del resto Anna è un personaggio come quelli che io ho sempre anelato a interpretare. Donne che non si conoscono e che vengono rivelate pian piano sullo schermo. No, but you. By watching them, you begin to understand and feel for them. Michel, je ne sais pas si tu reçois mes messages. J'appelle toutes les semaines. Mais on ne sait jamais avec ces téléphones. J'avais envie de passer pour voir comment vous allez. Ça fait une éternité. Signora Rampling, questo è un film in cui lei si mette in gioco anche con il corpo. Noi che facciamo altri mestieri abbiamo paura di mostrarci, invece l'attore si mette in gioco anche fisicamente, spogliandosi, usando tutto il suo corpo. Yes, because that's what we do, we show people what life can be like. Beh, questo è il nostro mestiere di attori, è quello di mostrare le varie possibilità, le varie forme di vita e di sentire che passano inevitabilmente attraverso il corpo. Ciascuno di noi prova nella vita problemi, difficoltà, dolori e gioia, tutta una gamma di emozioni, ed è questo il compito di un attore, mostrare al pubblico queste emozioni e questi travagli. Show you as truthfully as we can. What it is to feel. J'imagine que tu organises une fête et je me suis dit que je pourrais faire le gâteau préféré de Charlie, celui que je faisais pour toi. Je serais contente de vous voir. Je suis encore ta mère. The age has nothing to do with these things. Age has nothing to do. Creativity doesn't have an age. L'età non ha la minima importanza con la creatività. Ci sono degli autori che fanno cose straordinarie in giovane età e altri che lo fanno quando in realtà gli anni passano. Quindi non è un criterio. Per me non conta. Quello che conta è la visione che ha un autore, e Andrea ha manifestato di averla fin dal suo primo film, fin da Medeas. Ed era evidente questa sua visione all'interno della sceneggiatura. Poi diciamo che il rischio, l'avventura è stata cercare di vedere se questa visione si sarebbe trasferita nel film. Put on the screen. So it's like an adventure, you don't know where it's going to end. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Charlotte Rampling. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 7.